MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet compie 15 anni e celebra con gusto. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70% e i Pizza Days. Dal 19 al 22 giugno, dalle 18, i grandi maestri pizzaioli del territorio firmeranno pizze d'autore da non perdere. Guest star per l'inaugurazione Ciccio Vitiello. Ti aspettiamo! MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet compie 15 anni e celebra con gusto. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70% e i Pizza Days. Dal 19 al 22 giugno, dalle 18, i grandi maestri pizzaioli del territorio firmeranno pizze d'autore da non perdere. Guest star per l'inaugurazione Ciccio Vitiello. Ti aspettiamo! Questo è un tempo molto buono, lo aspettavo da un bel po'. Ci mettiamo a raccontare quello che non vuoi sapere. Molte sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner. Non c'è ancora un coccodrillo, popcorn. Non saranno rose e fiori, e state ad ascoltare, ma mandateli a zappare. E buonasera signore e signori, benvenuti qui su runtimeradio.it, ore 21, il mercoledì sera, quando c'è Pop Corner insieme a me, Simone Pizzi e Marco Gualdi. Ciao, bentornati, cos'è questa puzza? Sento puzza di... tempo, di film di serie B. Tempo al tempo. Maia, la serie B è nobilitazione. Walter Sbano. Buonasera, non pensate male, abbiamo pestato un tribolo. Un tribolo, sì, scureggiano i triboli, non lo so, fanno solo. Prova a schiacciarlo. Non lo voglio scoprire, guarda. No, infatti, prova a schiacciarlo, hai ragione. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Resuscitato da qualche parte, riuscito fuori dal Nexus, così come James Tiberius Kirk, Carmine Puccio Console. E qua che mi sbagliate, io sono il Carmine Puccio Console dell'universo specchio. Ah, non ci vedo un cazzo con la luce, c'ho il pizzetto, anzi proprio la barba dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi. Però pure i sopracciglioni, ci devi avere. Pure i sopracciglioni. L'elemento distintivo è il pizzetto. Io cambierei il nome. Cambierei il nome in Clonsole. Clonsole. Esatto, Clonsole. Mamma mia. E devi avere anche un abbigliamento, diciamo, vagamente militarista di cattivo gusto, perché rientra anche questo negli stereotipi del Serrano. Si è tatuato una spada sulla schiena. Sì, qualche fregio di quelli, insomma, che ricordano, diciamo, dei fasci littori, ecco. No, vagamente. Fasci vittori. Allora, intanto mettiamo la base giusta, perché quella dell'intro rock, insomma, ci è piaciuta. Ragazzi, a proposito di basi, no? Visto che salutiamo Peppe Rizzard e Luca S che ci hanno già raggiunto in chat, Luca S dice: si può dire che sta sigla è un cesso, ma perché la cambiate ogni settimana? No, non è che la cambiamo ogni settimana, è che quelle che hai sentito prima erano vecchie, erano avanzi, diciamo, delle precedenti di canzoni, mentre questa dovrebbe essere quella definitiva, sulla quale io però mi sento di tranquillizzare tutti. Noi ce l'abbiamo il coccodrillo per Shatner, e che non muore. Sì, è quello, no? Vabbè, è virtualmente. Poi, insomma, come fai a dire che è brutta la sigla dove dice il nuovo ordine mondiale che è governato da un maiale? Insomma, io Mi sono sentito chiamato in causa, però. Tu? No, eh no, certo, no. Io sono il maiale per definizione, ce l'ho pure nell'avatar. Cioè. Giusto, hai ragione. Però se sei un maiale blu, invece lui è un maiale rosso. Arancione. È più un maiale arancione. Ragazzi, ragazzi, siamo qui riuniti in questo momento dove l'indignazione non è inutile, no, inutile, completamente inutile, dove diciamo lo sdegno è assolutamente da mettere proprio completamente da parte. Sai che la delusione, neanche la delusione. Secondo me siamo diventati tutti dei piccoli vulcaniani dopo questo. Scusate, io non ho capito una cosa, ma state parlando della Meloni o di Trump? No, stiamo parlando del tema della puntata. E niente, sì, siamo stati infusi di logica e di, come posso dire, di tranquillità, cioè nel senso che alla fine abbiamo approcciato, diciamo, la visione di questa opera così come, insomma, già immaginavamo, anche se poi, e qui adesso disaminiamo tutto con i miei compagni, abbiamo il tempo, insomma, di dire ognuno tutto la merda che vogliamo, insomma, alla fine ci siamo trovati di fronte a una cosa che non ci ha stupito, non ci ha deluso, non ci ha indignato, non c'è niente. Cioè, non ci ha neanche rotto il cazzo, non è arrivato perché. Perché non è durato abbastanza. Non piace il cazzo. Quindi non è riuscito neanche a fare questo. Che normalmente è una cosa che, tutto sommato, un film, anche il più brutto, cerca di fare. Cioè, perlomeno, esatto, se non ti stupisce, ti rompe il cazzo. Guarda, io partirei da un primo spunto che voglio darvi, così facciamo il giro. Anche un primo sputo, volendo. Sputo soprattutto. Perché qui sputi. Allora, noi questo film, che chiamiamo film perché, insomma. Si è acceso? Ok, mi dicono dalla regia che si sono accesi i termosifoni. Grazie. Beh, ma dovremmo spegnere tutto il resto. Che però non abbiamo le batterie per spegnerli, quindi dopo non so come. Hai cambiato le batterie. Vabbè. Comunque, torniamo a noi. Questa opera cinematografò inizia praticamente con il logo della Paramount. Me la spieghi prima cinematografo, perché non ho capito il riferimento. Chi era che lo diceva? Era coso, Maccio Capatonda, la grande opera del cinematografo, capito? Cioè, allora no, mi manca, ok. Allora è questo il punto, mi manca il presupposto, va bene, scusa. No, ma figurate, inizia appunto con il logo della Paramount, con il logo del franchise. Quello che sembra il consueto, diciamo, intro. L'approccio, diciamo, classico, però avete notato, questa perlomeno è una cosa che voglio notare io, che al di là di quelli che sono i riferimenti obbligatori, diciamo, per farla incastonare un po', cioè questo film non ha un contesto Star Trek? Assolutamente no. Cioè, non ha un contesto Star Trek già dal titolo. Non c'è. L'hanno messo piccolo. Diciamo che è un po' come dire, ragazzi, è venuta talmente una cagata che sì, lo mettiamo all'interno del franchise, però se ve lo dimenticate non succede niente. Questo film si autodistruggerà entro 5 secondi dalla visione. E secondo me fra qualche tempo Puccio avrà voglia di rivederlo e andrà a accendere Paramount Plus e non lo troverà più. Insieme a Paramount Plus. Ma io vivo nella convinzione di dovermelo scaricare dai torrent, perché secondo me questo, come Willow su Disney, sparisce. Esatto. Quindi volevo questa vostra prima opinione sul fatto che non ci sono veri e propri riferimenti all'interno dell'ambito di Star Trek, non c'è tecnologia Trek, non c'è geografia Trek, non c'è collocazione, non si sa dove è ambientato, non si sa quando è ambientato. E non si sa perché. Quando lo sai. Vabbè, sì, quello si sa. Sì, però lo sai perché lo sai tu. Sì, perché abbiamo visto le serie precedenti. È inevitabilmente una costola di Discovery, volente o non è. Esatto, però diciamo che se io vedo il film così, onestamente non capisco un cazzo. Diciamo, è ambientato sicuramente in epoca pre-Kirk, quando di preciso boh. No, non è ambientato in epoca pre-Kirk, perché se partiamo dal presupposto che Kirk è apparso nella terza, sono in parallelo, sono assolutamente in parallelo. No, dico, penso prima che Kirk diventi capitano dell'Enterprise. Intendeva quindi dire, diciamo, in epoca Pike. Prima Pike, certo. Dove praticamente a un certo punto lei va nel futuro, poi la fanno ritornare indietro col portale dei de Dottor Who, perché lui era Dottor Who, secondo me, quel tizio che loro incontrano. Dottor Who, è la polizia temporale. Era il Dottor Who che lo fa ritornare indietro. E poi da lì, poi noi sapevamo che sarebbe dovuto succedere qualcosa. e quello che succede, succede male, brutto e decontestualizzato, cioè proprio un... Però a questo ci arriviamo. E volevo un attimo un vostro giro dei pareri su questa cosa del, del... Sì, è Star Trek, ma no. Marco, no, inizia tu. No, che sì, è Star Trek. Non è Star Trek, questo è Guerre Stellari, ragazzi. Cioè, Guerre Stellari, questo l'ho visto. C'è tanta gente che ha fatto questo commento, cioè è più Guerre Stellari di Star Trek questo film. Con gli alieni buttati a cazzo le cane, situazioni a cazzo le cane, cose che succedono. Tra l'altro poi dopo commentiamo. Fantastico. Anche il tizio mezzo bianco e mezzo nero. Un po' negativo lì. Lo dobbiamo commentare, ma ci arriviamo dopo. Vai, continua, continua, scusa. E poi niente, quindi io di Star Trek ci ho visto zero, perché tra l'altro, a parte che hanno messo il personaggio che poi dovrebbe essere la versione più giovane di un capitano che compare da qualche parte. Sì. Sì. E che è il capitano dell'Enterprise C, mica cazzi. Ah, ok. Ah. E praticamente sì, deve continuare. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Ma che ne so. E comunque diciamo, è una situazione in cui ci hanno messa un po' per fare l'occhiolino, capito? Il blink blink, e poi metteci qualcuno che dicesse flotta stellare ogni 5 minuti, se no non si capisce che cazzo sta succedendo lì, perché la gente sta lì, dove stanno, che serie è, dove dobbiamo ambientarlo, perché se non ci fosse questa che dice guerra stellare, sì, guerra stellare, flotta stellare ogni tanto, pure tu te sbagli, sì. Flotta stellare ogni tanto dice ok, ma che sta a vedere? Ogni tanto dice flotta stellare e quel punto, cioè all'inizio che ti dice che lei l'hanno collocata al di fuori della federazione, fanno vedere delle linee geografiche, ma insomma proprio tiè, perché non c'è effigie, non c'è una tecnologia che tu riconduci alla flotta stellare o a comunque al mondo di Star Trek, che comunque in qualche maniera, cioè è difficile vederla in alcune serie che sono quelle stellari ultimamente, quindi, vabbè, però insomma, tutto quelle stellari, vabbè. Walter, ma allora dunque anzitutto è un film che c'ha una serie di problemi pratici. Il primo è che è pieno di anacronismi insensati, ma veramente anche quelli più banali. Poi comincia veramente con questo, secondo me, involontario parallelo con Mission Impossible, no? Perché veramente inizia come un episodio della serie classica di Mission Impossible in cui devono risolvere la missione. Ma poi tu ti immagini questo, cioè, è anche Suicide Squad senza i personaggi simpatici, cioè, diciamo così. Sì, sì, sì, ma poi a come viene costituito il gruppo, magari ci arriviamo anche dopo. Però al di là di questo, proprio concettualmente, tu parti da degli assunti del tipo: cacchio, questi dovrebbero essere una sezione segreta del servizio segreto della più grande organizzazione interplanetaria. Che in realtà non esiste. Cioè, che non dovrebbe esistere, sì, però sono in realtà controllo alla fine ci fa capire che esistono, solo che questi, più che sembrare come dire un'elite mossa dai servizi segreti, è un gruppetto di peones mal formati, mal accroccati tra loro, come il classico stereotipo di tanti film d'azione ed eventualmente anche di fantascienza americani, portati gioco forza in un universo che non rappresentano, con quattro soldi di budget, perché di tutto il... Ai soldi ci arriviamo dopo, perché poi faccio la domanda. Allora ci arriviamo dopo, e con tutta questa serie di anacronismi tecnici e non tecnici che tu non ti spieghi, a cominciare dal fatto che invece di avere tricorder hanno gli smartphone, che probabilmente voleva essere una sorta di indicazione del fatto che loro, in quanto elite segreta, hanno dei mezzi tecnici che normalmente altri non avrebbero. No. Però comunque finiscono per essere degli oggetti anacronistici, perché da che mondo è mondo le ultime tecnologie tu in quanto servizio segreto magari ce l'hai per primo, ma dopo si ripercuotono, in qualche modo li rivedrai nell'uso comune. Invece no, loro hanno costantemente in mano sti cazzo dei telefonini, perché sono dei telefonini, sono dei cazzo di prop, neanche troppo faticosamente trasformati, no, visivamente in qualcosa che sembri diverso. Sono proprio degli smartphone con i quali praticamente fanno di tutto, e malgrado queste cose cercano di inserirli in un contesto in cui non si vede quasi niente di Star Trek, non si vedono le astronavi tipiche di Star Trek. Guarda, forse l'unico leggero, vago sentore è vedere questa stazione spaziale che, anche se architettonicamente molto diversa da Deep Space Nine o da altre, in qualche modo ci fa un po' ricordare il concetto. Ma per il resto, poi ci sono le astronavi che vediamo poche, e completamente scollate da quello che è lo stereotipo, il design tipico di Star Trek. Mo dirai, l'astronave del cattivo viene dall'universo specchio, quindi magari è diversa per quello, ma non sembra tecnologicamente molto anacronistica, quindi anche se è venuta da un altro universo, perché è completamente scollata da tutto quello che siamo abituati a vedere? Perché è tutto scollato, cioè nel senso, sì, quindi... gli sceneggiatori che ci sono dietro probabilmente di Star Trek non sapevano un cazzo, hanno cercato di fare un action movie pieno di stereotipi, tutto costruito. Ma quelli non sono gli sceneggiatori, Walter, quelli sono quelli che fanno che costruiscono i fondali, che costruiscono, no, vabbè, ma lì c'è non è una cosa casuale, esatto. Delle sceneggiatori, cioè, mica, non è che ti dicono fammi un'astronave, ti dicono segui questi parametri per farmi. Comunque, sì, ma non è una cosa casuale. Questa è stata una scelta. Questo aspetto estetico del film non doveva ricollegarsi comunque, okay, con l'ufficio. Forse l'unica ipotesi che posso dargli è il fatto che non voglio collegarlo troppo a Star Trek per renderlo più vendibile a livello generale, tra l'altro per i cinesi, perché diciamo questa... palesemente sto film è pieno di ammiccamenti a... anche se in realtà no, perché la protagonista, ora al di là del fatto che sono comunque vengono da pianeti non meglio dichiarati, Michelle Yeoh è vero che diciamo è naturalizzata cinese, però lei, se non ricordo male, è cambogiana o qualcosa del genere, quindi non è neanche esattamente cinese. Non so se lo è il protagonista, il cattivo della situazione, di preciso non mi sono andato a documentare, però a parte quello, no, però dai, la sensazione che è un film per i cinesi è... cioè... sì, perché poi la cosa assurda è che tu guarda caso, no? E lo vediamo dopo analizzando la trama. De tutti quelli che erano papabili per diventare il nuovo imperatore dell'impero terrano, guarda caso ce ne sono due, sono tutti e due praticamente cinesi. Tutti, vabbè, e due dello stesso pianeta. Ne stavamo parlando prima, perché i cinesi, gli orientali in genere, ma i cinesi sono più cattivi di tutti, quindi giustamente, esatto, sono i dominatori tiranni del mondo. Ma è proprio... i pori Viet Cong, è come i Viet Cong, esatto. Tutti aspetti che come ci insegna Flash Gordon con l'imperatore Ming, esatto. Hai ragione, si chiama anche Ming, tra l'altro, quello che facevi i vasi, tra l'altro, e che minghie poi, esatto. Comunque, vabbè, quindi niente, insomma, la premessa da cui partire è questa, okay. Abbiamo visto un film che non c'ha niente di Star Trek e che è pieno di stereotipi gestiti male. Allora Puccio, rimaniamo su questo contesto Star Trek, decontestualizzazione, geograficizzazione, cioè proprio non sai un cazzo di questo film, che tra l'altro poi diciamocelo, questo lo diciamo dopo, se durava 25 minuti non succedeva niente. Cioè, no, ma questo è il discorso che questo è un cortometraggio, che dura tantissimo, cioè nel senso, perché vabbè, allora premessa, io e Simone prima di vedercelo ci stavamo a chat su Telegram, come facciamo a volte, e io gli ho detto guarda che l'hanno caricato su Paramount Plus e gli ho mandato lo screenshot, dura 1 ora e 40, a me mi puzza di episodio lungo. E Simone giustamente dice pure a me. Però contestualizziamo un attimo una cosa. Allora, sto film non doveva essere un film, doveva essere un pilota, che era il pilota della serie sulla sezione 31, eccetera eccetera. Poi è successo che Michelle Yeoh ha fatto carriera nel frattempo, cioè è diventata un'attrice da premio Oscar, ha avuto quell'exploit gigantesco con Everything Everywhere eccetera eccetera. Che è successo? Si sono dovuti rifare i piani, perché giustamente non potevano più permettersi di tenerla per fare una serie TV, perché sarebbe costata uno sproposito. Il progetto di Sezione 31 diventa un film che è stato iniziato e spezzato più volte, ma che di base doveva essere un pilota. E come ci insegna Tarantino, ci sono i piloti che diventano serie e quelli e che non lo diventano e diventano niente. Questo è diventato un film, sì. Se diventava niente, sì, però diciamo che da quello che la produzione stessa comunica, alla fine voglio dire, questo il film hanno riscritto 4 volte, cioè, ma forse anche di più. Sta cosa è abbastanza sconcertante, cioè, in mezzo Klingon che ci doveva essere non c'è sta, cioè sono sparite un po' di cose che sapevamo dovevano esserci e in realtà non ci sono. Però secondo me, Puccio, la questione del che abbia influito la crescita, no, del cachet di Michelle Yeoh è ormai un astratto che non è proprio diciamo. No, non è solo quello. No, però. No, però ti spiego perché, rispetto a qualche anno fa, ormai gli attori di serie A ammesso che Michel Yeoh lo sia, non hanno più grossi problemi ad alternare cinema e TV, e in tante situazioni molti attori sono diventati, che prima snobbavano la televisione, ormai ne fanno tantissima, sia perché ci sono le piattaforme di mezzo che ovviamente investono in prodotti originali, e anche perché da una parte la qualità dei prodotti diciamo televisivi sta salendo, mentre invece quella del cinema è rimasta stagnante. In questo caso, secondo me, il problema non era economico, poteva, tant'è che comunque a Michel Yeoh, se non ricordo male, hanno dato 12 milioni di dollari Mi dici cazzi, cioè. Appunto, quindi eventualmente avrebbero potuto darglieli per fare una serie, avrebbe avuto comunque il problema Walter, vabbè, è che gli hanno dato tempi, l'avrebbero occupata per un anno, ma non credo che Michel Yeoh, è vero che ha vinto l'Oscar, ma non credo che Michel Yeoh adesso sia come dire con l'agenda così piena. Allora, questo sono d'accordo con te, cioè è una riflessione che abbiamo fatto pure con Marco, no? Perché poi parliamo un attimo di lei, ma al volo, perché poi dopo c'avevo altri punti che volevo prima affrontare e poi ritornare un po' pure su questo. Cioè è vero che lei, secondo me, ultimamente non la vedo che cavalca decine di iscrizioni ai film o via dicendo, no? Cioè, non sappiamo nel cinema cinese, ma è vero però è vero dall'altra parte, ed è vero dall'altra parte che comunque quando tu raggiungi determinati obiettivi, almeno per X numero di tempo, c'hai un cachet che è quello che è, insomma. E secondo me 12 milioni per un film che se ne è costati 30 è già tanto, e so comunque 29 di troppo, e so comunque 29 di troppo, dove tra l'altro non solo il film è una schifezza in senso assoluto, senza niente che può essere salvato, compresa lei, perché comunque l'interpretazione di lei è zero, cioè è stereotipata, è zero. Pilota automatico si chiama. È zero, sì, sia proprio della serie, il minimo indispensabile, perché è talmente banale quello che hanno dovuto recitare sti porigri. E poi ecco, riveniamo un po' a quello che diceva Walter prima, no? Cioè tu c'hai sta sezione 31 che nella prima puntata, anzi nella prima o nelle prime puntate dei Discovery, quando provava ancora a essere quasi una cosa interessante, no? E tu vedi questi i tizi della sezione 31, quelli con gli stemmi neri, no? Che ti davano quel senso di pesantezza, di segretezza. No, non li guarda. Hai capito? C'è una cosa tipo, questi di timore anche. Questi sono quattro coglioni. Perché sono due, quattro coi. Uno è il coso, il tipo robotico, che è veramente preso proprio dalla serie animata di Star Wars di pessimo livello, proprio, cioè nel senso proprio di quarto ordine. E il vulcaniano robot col Dalek dentro, che l'hai copiato da Dottor Who. La tizia. Io gli avevo dato dei nomi perché non riuscivo a ricordarmi quelli veri, tanto sono memorabili come personaggi, che erano diventati tipo Iron Man di Leroy Merlin, una roba del genere, cioè me li ero segnati così quando mi sono fatto la scheda perché dovevamo parlare stasera. Quello come si chiama? Il vulcaniano col coso, l'ho chiamato Micro Machine, cioè proprio non riuscivo a ricordarmi i nomi. Cioè, non mi entravano in testa. Ah, e soprattutto il capo di questa squadra, che poi, tra l'altro, cioè, se ci pensate, uno dei primi 5 minuti di quel film ci crede pure, perché sembra un heist movie, tipo, che ne so, Ocean Eleven. Sì, dire. Esatto, sì, quello. Magari no. A parte che, cioè, io vedevo il capitano della squadra è evidentemente Idris Elba del Discount. Sì. Ma proprio sotto tutti i punti di vista, e si sono sforzati di farlo simile a Idris Elba, secondo me non è un caso se è così, cioè, il problema è che Idris Elba è stato il cattivo del terzo film dell'universo di J.J. Abrams, però cioè, e lo puoi riutilizzare, tanto l'universo di J.J. Abrams praticamente c'entra un cazzo, quindi lo prendi e lo importi tranquillamente, ma dopo ti costa altri 12 milioni, cioè, no. È un attore decente, cioè, no, questo prendi un attore decente, ragazzi, ma al di là di tutto, prendi un attore decente, vai lì, e poi dopo a un certo punto il regista è costretto ad andare lì e dirgli: questo comandante me lo devi lasciare un pandà, capito? Un po' a cazzo di cane, capito? È così. Quindi è inutile che lo prendi. Comunque, ragazzi, cioè, il vero problema, qui facciamo il giro tutti quanti. Anzi, prima di sta cosa, volevo fare questa specie di battuta. Perché recentemente, senza di chi, come, quando e perché, mi è stato raccontato che è stato chiesto a una persona che conosco di fare un progetto podcast. E praticamente quando lui per accettare, insomma, ha cercato di capire, gli è stato detto: guarda, sono stati spesi tantissimi soldi per l'attrezzatura, tipo 5, 7, 10 mila euro, adesso non ricordo quanto, però poi alla fine l'attrezzatura era sì e no una roba da 700-800 euro, insomma, no? E quindi è come se qualcuno venisse a dire dobbiamo fare sto film, dice, abbiamo investito questi soldi qui, però tanto i soldi se li sono fregati tutti e non c'è rimasto un cazzo. È quello che ha dovuto fare sto film, perché c'è questo tizio che immagino che l'ha dovuto fare sto film, cioè oramai stava lì a firmare il contratto, che si trova di fronte a una cosa che è palesemente a basso budget, e questo, sai, per me può essere un problema fino a un certo punto, però lo è quando poi tu punti tutto su un aspetto che è quello spettacolare dell'action, che fa schifo in tutti i casi, anche in quel senso lì, e soprattutto quando tu c'hai dei personaggi che sulla sul character sheet che tu costruisci del personaggio sono quattro righe a personaggio. Cioè, perché lì sono quattro righe a personaggio, cioè lì non c'è niente, cioè, anche l'attore, come lo faccio questo? Ah, tu sei il tipo mezzo robotico che è un po' un coglione. Ah, che vabbè, ti fa? Ridi a cazzo di cane ogni tanto. Fai battuta, bravo! Ridi a... Così. Così. L'unico personaggio interessante era quella di Delta, la fanno morire subito perché era troppo buona per tenerla. E quella la pagavano a Firenze, cioè, è troppo buona, più di 20 minuti un po' fa, via, mori. Quella era buona, hanno dovuto morire subito. Per Lee Gonzalez. Cioè, tradizionalmente nei film di Star Trek, quelli che vengono da Delta non durano tantissimo. No. Esatto. Infatti c'era, secondo me è stato anche un tentativo anche lì di fare un minimo di fanservice, perché ovviamente c'era il riferimento al primo film di Star Trek, ma sono proprio quei piccolissimi elementi che ti aiutano a creare cercano di aiutarti a creare un contesto che non c'è. Poi sul budget io potrei stupirmi, perché se non ho letto male, solo che non ritrovo più quelle fonti di qualche mese fa, si parlava compreso il cachet di Michel Yeoh, tra l'altro Peppe Rizzard in chat dice Michel Yeoh prende così tanti soldi che ormai si chiama Michel Facchea, anche se in realtà, voglio dire, comunque è ricca di famiglia perché sta con Jean Todd, però al di là di quello secondo... Vabbè, non ricordiamoci sta cosa. Sì, però non è che gli fa così tutto onore sta cosa, cioè. No, la fa lui però dicevo, il budget se non ricordo male doveva stare intorno agli 80 milioni, non è che l'hanno fatto proprio con due noccioline. Vabbè, Walter, dai, è chiaro che con 80 milioni qualcuno si è fregato i soldi, cioè almeno la metà dei soldi se li sono fregati. Non credo. Cioè, comunque, cioè, vabbè, secondo cioè. Me il problema grosso è che per me abbiamo il problema di una sceneggiatura che è nata per essere una serie, che poi è stata asciugata per entrare in un'ora e mezza, di cui la prima mezz'ora serve solo a introdurre personaggi con i quali non fai in tempo ad empatizzare, perché o sono dei coglioni o muoiono. O muoiono da coglioni. No, in realtà Walter, una cosa non esclude l'altra, cioè nel senso siete coglioni o muoiono da coglioni, perché insomma nel momento in cui decidi di fare un film di un'ora e mezza rinuncia alla parte di pippone di introduzione, ti focalizzi solo su un paio di personaggi e gli altri li fai andare così come vanno. Soltanto che sono stati tutti talmente stereotipati e talmente... Sì, Ice Movie, siamo d'accordo, ma veramente di bassa qualità. In una fase in cui ormai le produzioni delle piattaforme, le produzioni originali per le piattaforme sono mediamente di buon livello, qua siamo tornati 20 anni indietro. Ma guarda, io non lo so se siamo andati avanti indietro, secondo me siamo andati male, semplicemente perché poi se tu vai a vedere qui altro giro d'opinioni, ok... Ci siamo concentrati nella prima parte per costruire un'empatizzazione dei personaggi che non hanno un minimo di spessore, quindi è difficile un po' empatizzare. Ma tu ti ricordi a malapena. Cioè, io non mi ricordo, come diceva giustamente Puccio prima, non mi ricordo come si chiamano. Il problema non è la prima parte, secondo me, che non è riuscita perché i personaggi non sono belli, perché non è divertente, non riesce neanche a far ridere, cioè non c'è niente di tutto quello che vorrebbe fare. Ma il problema secondo me è la seconda parte, perché la seconda parte sono 15 minuti di storia, cioè tu allora Vediamo, lo raccontiamo così velocemente, così poi dite tutti la vostra. Lo raccontiamo. Aspettate, date un allarme spoiler. Spoiler. Caso qualcuno fosse interessato a vedere questo film contro la nostra opinione, contro la vostra volontà, abbondantemente avvisato. Sì, esatto, siete a vostro rischio. Anche minacciarvi, ma lo facciamo per il vostro bene. No, ma in realtà chi ci ascolta, Buccio, lo sa che noi famo spoiler. Quindi, però, sì, ecco, diciamo che tu vai in una stazione spaziale, una stazione stellare al di fuori della federazione, arrivi e già ti hanno sgamato perché aveva capito tutti che eravate della sezione 31, perché tanto lo sapevano che lei doveva arrivare a sta sezione 31. Vanno là, la ingaggiano, no, a me non mi frega niente, dai, cosa, ma come, c'è st'arma biologica, potrebbe essere pericoloso, cioè potrebbe essere un genocidio. Ah, lei improvvisamente c'ha questi retaggi che io sono l'imperatore malvagio, però ricordatevi che c'ho pure un po' una coscienza, così. Ah, scusate, parentesi, io non ricordo perché magari sono io che mi dimentico, però non era mai stato spiegato come viene, tra virgolette, sorteggiato l'imperatore nell'universo specchio, però più o meno ce l'avevano venduto che era una lotta di potere clandestina, coltellate alle spalle, è venuto fuori che ci sono gli Hunger Games. Esatto, lo stavo per dire io, è diventato Hunger Games precisamente. Vabbè, che più o meno comunque concettualmente non è così incompatibile con quello che era stato detto. In realtà stavo per dire una cosa molto più razzista, più che Hunger Games mi sembrava mai dire Banzai, però col sadismo, esatto, innato, cioè perché gli fanno fare le prove fino a quando uno non sopravvive e tu sei lì. Sta cosa mi confermate che è nuova, perché io non me la ricordo. No, vabbè, ma questa cosa non è mai stata approfondita, cioè allora queste cose che fondamentalmente Simone non gliene è mai fregato un cazzo, esatto, a nessuno, vabbè, ok, cioè, esatto, ma soprattutto a me, però diciamo che quando ci sono delle cose che narrativamente non sono mai state esplorate, tu le puoi esplorare, nessuno ti dice niente su questa cosa qua. Il problema è che gli devi dare un po', ma a me pure, tutto sommato, quella cosa che tu devi uccidere la tua famiglia per diventare imperatore, perché ti devi staccare dalla tua umanità, cioè, tutto sommato, cioè, anche un senso messo nel contesto. È forse l'unica scena decente del film. Se andiamo, aspetta, finisco solo sta cosa, poi andate voi a ruota libera. Comunque, c'è l'arma biologica, ok, arriva il tizio, gli dai due cazzotti, perché arriva un altro tizio che è ancora più cazzuto di lui, che se frega ovviamente quest'arma biologica, che lei riconosce che non è un'arma biologica ma è un'arma di sterminio di massa che lei stessa aveva fatto costruire nell'altro universo. E allora c'è il tizio che, tra l'altro, sta cosa che si spostano di frequenza dalla realtà. C'era anche su Next Generation. Sì, è vero, però che è una delle più grosse cazzate, perché se tu non sei più aderente alla realtà e quindi non puoi prendere gli oggetti, sei sfasato rispetto alla, esatto, cioè il problema è della gravità. Allo stesso tempo dovresti precipitare fuori dalla stazione, però no, vabbè, perché è un sistema intelligente, e c'è l'intelligenza, scambia fino a un certo punto. Un ascoltatore medio non abbia capito di cosa state parlando, però vabbè, comunque dai, noi lei comunque c'è quest'arma che loro devono intercettare. L'arma lei la riconosce, è l'arma dello sterminio di massa. Alla fine quest'arma viene presa e portata a quello che la vuole assolutamente per sé, che scopriamo subito che è praticamente il tizio con il quale lei combatteva per diventare imperatrice. A quel punto che succede? Succede che lei deve andare da questo e ammazzarlo, ed è quello che succede, cioè non c'è niente in mezzo. Cioè, non c'è una strategia, una tattica, un pensiero. Tipo, che ne so, mettete tipo l'ira di Khan, no? Dove dentro la nebulosa, quello Kirk faceva il suo ragionamento e si metteva di traverso dentro le nuvole, così non vedeva, quell'altro sparava a casaccio perché tanto prima o poi te prendo. Cioè, qui non c'è niente. Niente. Cioè, no, all'inizio del film c'è una grossissima. Esempio di tattica militare e proprio sociopolitica. Tipo, cioè, praticamente, allora, tu sei Michel Yeoh, io sono il cattivo stronzo, Cino Stronzo, perché non sappiamo come si chiama. Si chiama Cino Stronzo. Sì. Io sono Cino Stronzo. Io te voglio in qualche modo fatela pagare. Ok, quindi io vengo dall'altra parte, che non so che ci stai dall'altra parte. Che tra l'altro, ricordiamoci sempre che c'è un punto dove lui deve andare, che non lo sa nessuno, ma lì dice si ritorna nell'universo. Però comunque, in ogni caso, io in qualche modo so che tu sei dall'altra parte. Non lo so perché, come. Cioè, io non mi sembra che dall'altra parte sapevano di questo universo specchio, perché chiunque veniva a sapere l'universo specchio veniva ucciso, se non mi ricordo male facevano questa cosa, però improvvisamente tutti sanno come si passa, comunque lo occultavano, diciamo. Aspetta, così. Aspetta, questo praticamente allora fa venire un'arma dall'altra parte e la fa portare dal primo coglione dentro la stazione dove sta Michelle Yeoh. Ma perché? Ma come, Marco, perché? Te lo spiegano alla fine del film, in maniera anche diciamo raffazzonata. L'arma era collegata al codice genetico di lei, lo poteva attivare solo lei. Ah, ok, perfetto, ottimo. Altrimenti era completamente inutile. E perché non rapire però... lei? Perché non rapire lei o farla andare da qualche parte? Perché lei è proprio stupido, perché quell'arma era completamente inerte e inutile senza di lei. Appunto. Cioè, come fai venire lei da te. Intanto salutiamo Ruggero. Infatti lui, il tizio che ruba l'arma, la apre dopo che l'ha toccata lei, cioè nel senso, sì, cioè lui la prima è bloccata. E comunque vero, dice: perché non rapisci lei? Perché lei c'ha il cazzo dritto e ammazza tutti, quindi c'è, cioè, avete provato, cioè, provateci a rapirla. Esatto, insomma, lei ha visto mena tutti, lei corca tutti, non importa se c'ha 50 anni. Poi 60 abbondanti. Vorrei capire una cosa. Allora, nel momento in cui inizia il flashback in cui ti spiega come lei è diventata imperatrice, sì, che c'era un altro candidato di cui lei, guarda caso, era innamorata, anzi erano innamorate a vicenda, chi di voi non ha capito dopo tipo 3 secondi che quello con la maschera era il redivivo secondo concorrente degli Hunger Games? Ovviamente. Ma sì, era di un'ovvietà, era tutto assolutamente stereotipale. Sì, sì, a me, ma cioè, è per questo che ti sto... Io non l'ho capito, non l'ho capito perché a me francamente non me ne fregava un cazzo di chi era, quindi insomma, non ci ho neanche pensato, ma questo chi sarà? Vabbè. No, ma perché tu a un certo punto dici vabbè, arriviamo alla fine del film. Il problema, regà, è che veramente nella seconda parte non c'è una storia. Cioè, tu dici, oh, questa doveva essere una serie televisiva. Cioè, ma se non ce l'ha fatta essere un film, come poteva essere una serie di... Ma tra l'altro, l'altra cosa è che si sono giocati malissimo. Cioè, poteva leggere, era il traditore della squadra. Aspettate, con calma. Ci siamo sovrapposti, dicevo, il traditore della squadra. Sì. Che è l'altra cosa su cui potevi far ruotare la seconda parte del film. Ok, una volta che hai detto, ci hanno beccato perché c'è uno che se l'è cantata. Chi è? Boh. In realtà è l'unica cosa che più o meno ha retto, perché i primi 10 minuti... ti viene il dubbio che ci siano 2 mutaforma, non uno, e che si stiano alternando e uno dei due sia il traditore. No, poi viene fuori che la micro machine impiantata nel corpo del vulcaniano robotico, ma quello doveva essere, come ti devo dire, l'argomento portante della seconda parte del film. Invece è stata giocata che si capisce in 5 minuti e viene spiegato in una maniera assolutamente con l'accetta, cioè, ah, ok, è lui. Sì, comunque adesso passiamo la parola a Walter, dicendo che c'è, cioè, il cino cattivo scappa verso la fessura. No, lei, detta così, lei lo porta verso l'increspatura che lo fa tornare nell'altro universo. Lei lo insegue, lo trova e lo mena. Basta, cioè, lo mena, ma non, cioè, che lo ammazza con perché un colpo... sai perché lo trovi subito, cioè se lo trovi subito, tra l'altro con una chiatta che parte perché non parte perché non c'è il cilindro. Ah vabbè, ecco il cilindro, ah, l'avevo levato io, no, quello vabbè l'ha levato lui perché sì, ho capito, però... ma l'astronave che casca a pezzi piena di polvere, tutta sdrenata con i buchi sulle finestre, non parte perché non c'è sta il cilindro, ma che è sta stronza, riga, è come su, non parte perché gli è come su batteria, Discovery, cioè. No, è come su Discovery, che quelli dice non possiamo comunicare, non perché si sono rotte le antenne, ma perché manca il relè, cioè, no, dai, riga. Basta, ho capito, ma se basta. Tu ce l'avevi la batteria per dita, no, la macchina non parte, basta, cioè, basta, scusa. Gualdi, basta, non si può più questa stronzata, cioè, secondo me le stronzate comunque, sono altre, vai, Sbano, cioè. Vabbè, quelli sono tutti espedienti narrativi alla stregua del questo lo dimo, proprio perché tu a un certo punto hai detto non regge come film, come poteva reggere come serie. Secondo me è proprio questo il punto, invece, che se avesse avuto il tempo, se ci fosse stato il tempo di dipanare meglio le trame nell'arco diciamo di un racconto strutturato, quindi anche di introdurre e di dare spazio sufficiente a ogni personaggio e di portare una trama, quindi non antologica ma una trama unica lungo 6, 7, 8, 10 episodi, avrebbe potuto funzionare molto di più. Ed è per questo che ti dico che il grosso difetto di questa trama è che è sicuramente la compressione di una trama che era nata per essere per una serie, che è rimasta nei presupposti la stessa ma completamente bignamizzata. Ok, questo ci può anche stare, però che creami un ostacolo. Creiamo un impedimento, no, cioè ma lì ci sono proprio delle incapacità di scrittura. Però al di là di questo, no, partiamo dalla fine, la questione di questo mega ordigno. All'inizio ti viene introdotto, no, come un'arma talmente potente che se la usi devasti un universo intero, perché così hanno detto, no? Cioè, quell'arma era, sarebbe stata, un sistema, sarebbe, sì, stata in grado di distruggere un sistema intero. Sì, cioè, fa un genocidio, cazzo. Ma non è così, poi, cioè, nel senso, no, se poi alla fine esplode e la usano anche qui nel modo più stereotipale dei modi stereotipali. Non è più una bomba genetica, no. La usano per chiudere la fessura che collega i due universi. È un qualcosa, Walter, è un qualcosa. Tu devi vedere che questo. Comunque, no, questa è un'arma che la fa detonare a infetta gli altri sistemi. Comunque, specchio. Una volta che è detonata, quel sistema lo deve distruggere tutto, perché me l'hai presupposto tu che è un'arma così potente. Invece no, semplicemente riesce a chiudere la falla tra i due universi. Per il resto non è dato sapere se ha fatto altri danni, presumibilmente no. Potrebbe aver distrutto tutto l'universo specchio, perché che ne sappiamo. Esatto, è lì l'ennesima inconsistenza di una trama, no? Che ma proprio non è importante, non ce ne frega un cazzo. Non riesce ad avere una, come dire, un'attendibilità da nessun punto di vista. Poi ecco, ti mettono tutti questi piccoli elementi per cercare di farti ammiccare a qualcosa che sia vagamente Star Trek. E anche lì lo skin job vulcaniano, no? Perché su Vulcano dovrebbero fare dei robot con fattezze, diciamo, da vulcaniano biologico. Ma chi l'ha fatte poi? Scusa, ma non ti viene detto che fermi. No, cioè, questo c'è giusto, c'è ragione Puccio. Cioè, non è che loro dicono che sono stati vulcaniani a fare sti androidi. Sono quattro comprato. Allora è un manufatto fatto da qualcuno che è mercato nero, qualsiasi cosa. Scusa, chi l'ha fatto? Devi vedere la serie. Il dottor Soren. No, dice perché sono a forma di vulcaniano? Perché nella storia dovevamo mettere qualche elemento riconoscibile, riconducibile. Allora che facciamo? Ci mettiamo uno con le orecchie a punta. Ma allora perlomeno fa loro Romulano, se proprio. Sì, ma poi lo conoscono in meno. Che poi se io lo guardavo distrattamente, manco ci pensavo che era un vulcaniano. Cioè, nel senso, comunque. Anche perché rideva, quindi. Cioè, no, ma al di là di questo, ma poi con sti cazzo dei capelli emo de merda che. Cioè adesso, cioè, Discovery, cioè, ci ha insegnato che non si può prescindere da questa cosa qui. Ma capelli a scodella. Il problema, ragazzi, è veramente qui, è l'ultra dei problemi, è la motivazione. Cioè, nel senso, tu sei l'avversario dell'imperatore per diventare imperatore, però sei anche innamorato, però perdi la sfida. Vabbè, ma quello è uno stereotipo che aspetta, però porco due, no? Non mi fate bestemmiare. Cioè, io dico, tu dici, io ce l'ho con lei, voglio punire lei, e allora stermina un intero universo. Che cazzo vuol dire sta cosa? Che te devo dire, il rudimento di culo. Però aspetta, fammi tornare ad una cosa, perché Ruggero chiede: ma davvero c'è il solito relè che non funziona? Sempre, in realtà sempre. Più di uno, perché a metà film, per necessità di avvenimenti che devono procedere in parallelo, il gruppetto, questo heist di scappati di casa, questi peones, si dividono in tre. Ognuno dei sottogruppetti deve cercare una cosa sulla nave, diventa una specie di gioco del ruolo, una caccia al tesoro. Tre devono fare una cosa, tre ne devono fare un'altra, e gli ultimi due o tre che erano rimasti si devono andare all'esterno di questa specie di nave. Ognuno di loro deve trovare un oggetto funzionale a far partire la nave. Sì, quindi le tre prove di Monkey Island. Esatto, qui veramente l'espediente narrativo per cercare di risolvere in 20 minuti dei problemi complessi, no? Proprio perché non hai tempo di far fare tutto a tutti linearmente, allora li sparpagli. E appunto tutto quanto si deve svolgere in 20 minuti, di conseguenza ti lascio immaginare quanto approssimativo e poco raccontato sia lo svolgimento di queste tre. Non c'è nessuna narrazione, infatti. Tra l'altro, se ci pensate, c'è una parificazione tecnologica, non importa se tu sei la nave stellare dell'ammiraglia della flotta stellare che va a curvatura 9.99 o se sei una chiatta che appa rifiuti, vanno tutti alla stessa velocità, non gliene frega un cazzo, anzi ma qui non si parla di velocità, però vabbè, però non lo sai, anche perché come non lo sai, Puccio, che cazzo dici? Quella no, dice. Non te lo dice, anche a velocità no, non te lo dice, però raggiunge il tizio, quindi c'è, cioè, nel senso, ma lo sta ferma, certa, cioè. Considerate che il grosso del film, capito, si ambienta su un pianeta abbandonato, un pianeta miniera, sì, che potrebbe essere una specie di pianeta giacimento minerario, qualcosa del genere, dove nei sotterranei ci sono cunicoli sterminati. Ci si muove con delle chiatte gravitazionali all'interno di questi cunicoli, ma per il resto noi non vediamo altro. Le ambientazioni di tutta la stazione spaziale dove inizia tutto, questo pianeta miniera e alcuni ambienti di alcune astronavi che però non sono le astronavi di Star Trek, sono delle navettine. E tu dici, boh, ma questi sono veramente sto gruppo di peones che arriva, non si sa nemmeno poi con che nave spaziale sono arrivati all'inizio della storia Scoppia. Certo, teoricamente con quella che scoppia. Ma porca miseria, ho capito che non ci devi avere una nave con l'effigie della Federazione perché sei in incognito, però non esageriamo, cioè veramente non c'è un cazzo, li hanno mandati veramente come hanno fatto la fine dei Cocciolone e Bellina alla prima guerra del Golfo, cioè presi abbattuti, sono l'inutilità fatta team questi. Ma no, dai, poveracci. A contare quelli sono stati abbattuti per davvero, sono stati fatti prigionieri. Ho capito, però un po' di rispetto. No, ho capito, vabbè, sono passati. Allora i Marò. Allora i Marò. Scusate un attimo Puccio, l'ultima cosa, perché questa cosa è quello che ti rovina il mood di inizio film. C'è questo gruppetto che potrebbero essere comunque molto borderline, dovrebbero essere appunto quella mano oscura della federazione che può fare cose in modi poco ortodossi. Ma c'è la tizia, no, perché io sono della federazione e sono qui per assicurarmi che non venga ucciso nessuno. Oh, ah, vabbè. Allora dimmelo che non è nemmeno un film dignitoso, perché mi stai dicendo, guarda, questo deve essere un film per ragazzini, non potete uccidere nessuno. No. Sì, ma troppo, veramente troppo. Quello è il meno, cioè. No, su quello io sono d'accordo con Walter, perché cioè, nel senso, quello è un personaggio che tu l'hai messo proprio perché talmente decontestualizzato da Star Trek sto film, che a un certo punto ogni tanto devi dire io sono la Flotta Stellare, no? Che poi che cazzo, cioè nel senso, non c'è sta che nella sezione 31 sta quello della Flotta Stellare, rompi coglioni, allora a che serve la sezione 31? Ragazzi, i preamboli che erano stati messi in Discovery della sezione 31 erano tutt'altri. Sì, cioè, c'è stava uno che era mezzo Klingon, vorrei dire. Erano comunque l'ufficio affari sporchi, e l'ufficio affari sporchi fa gli affari sporchi, non ti mette il controllore e dice no, ma non mi fare affari sporchi. No, ma non solo, ma poi ragazzi, io questi qua non erano buoni a allacciarsi le scarpe, no? Cioè, no. Allora, il problema, secondo me, noi l'abbiamo visto con la curiosità di vedere una cosa che sapevamo ci avrebbe fatto schifo, anche perché sapevamo che ci facevamo la trasmissione e l'avremmo criticata, no? Però poi, quando tu guardi una cosa come questa, tra l'altro vorrei far notare la scena finale, che è incredibile, perché la scena finale, proprio la sequenza finale è qualcosa di straordinario, dove tu vedi questa... un po' ghiacciante, vedi questa stazione spaziale che improvvisamente diventa la nave a curvatura, cioè è quello che dicevo, cioè lì non si pongono proprio più il problema, tutto va a curvatura e tutto va alla stessa velocità, quindi non è che si pongono proprio il problema, tra l'altro circonda la nave, però il problema è che quando tu ti sei guardato sto film in altre condizioni ti saresti domandato, ma qual è il target di sto film? Ok, e qui invece io non me lo sono manco più domandato, cioè ho talmente accannato proprio il pensiero. Però ecco, secondo me bisognerebbe capire qual è il target di questo film, a chi è di al di là dei cinema, io dico proprio come fascia d'età, perché secondo me pure i ragazzini lo schivano un film del genere. No, non penso sia indirizzato ai ragazzini in alcun modo, cioè non ho avuto questa sensazione, cioè a me mi ha dato veramente la sensazione di abbiamo scritto una trama che per motivi che deve essere questa e non si può cambiare per una serie, la dobbiamo condensare in 2 ore di film, no, 2 ore nemmeno, dobbiamo fare un episodio pilota in pratica, perché non è 45, signori, è un episodio doppio di Star Trek, non è un film, e ce lo mettiamo tutto quanto qua dentro. Ma il fatto che possa essere stato pensato per un pubblico di ragazzini, no, perché cioè non, però non ti dico, secondo me è una cosa trasversale, manco hanno targettizzato il marketing per quella fascia di pubblico, secondo me è una cosa trasversale, cioè cerchiamo di via più possibile, perché tanto farà schifo un po' sì, tutti. È dogoglio goglio, sì, una cosa però ragazzi, il minutaggio ora prima che arrivasse Marvel a tirarci i pipponi da 3 ore e mezza, un film di 1 ora e 45 al cinema era più che normale, più che dignitoso. Sì, diciamo che i lungometraggi di Star Trek in effetti quanto durano, sai, non ci ho fatto caso. No, in realtà, che ormai hai il bias dei film che devono durare per forza 3 ore, ma in realtà no, 3 ore no, però 2 ore, diciamo. Siamo a 1 e 45, ci sta, era una media normale. Allora sì, diciamo che sta nella media dei film, cioè nel senso anche più canonici, più classici, non è una durata così inferiore. Cioè se fosse durato che so 70 minuti, allora vabbè, ti avrei detto insomma ok, ragazzi. Ma se consideri che un episodio normale dura 45-50 minuti, vabbè, però no, dura quanto un film normale di media, poi chiaramente ci sono i film che durano di più perché magari hanno un ampio respiro rispetto a quello che vogliono raccontare, ma il problema è che sono proprio sprecati. Tra l'altro ci sono alcuni inseguimenti, alcune scene action, diciamo, oh, Madonna, che Marco, che non si vedeva un cazzo, non si capisce un cazzo, ma è fatto, cioè, non è leggibile. Cioè, sono delle cose che fatte chi proprio... mena chi viene menato, che non si capisce niente, gente che si muove, tra l'altro pure veloce, perché non si deve capire in cazzo. Ma non si deve, sì, perché dai, non puoi dire che quello è fatto male perché non sei buono a farlo, no? No, scusate, ma quando il mutaforma diventa una rete di salvataggio che è in realtà un radio. Sì. Io ci ho avuto un momento del testo. Cioè io pensavo fosse un dispositivo di salvataggio del treno. Ho capito dopo che era lui. Che cosa, cioè, sto vedendo? Ho capito che la rete parlava, ho capito che era il butaforma. Io pensavo sarà un sistema di salvataggio del treno. Vabbè. Sì, l'hanno previsto che uno si può lanciare. No, dai, lì te lo dici, perché cosa cazzo sto vedendo? Questi fa proprio l'attenzione con cui lo stavo guardando. Ragazzi, ad un certo punto in passato io ho creduto che Olatunde Otsunami in qualche modo un po' demanico ce l'avesse, ma questo film mi sono completamente ricreduto. Guarda, è una cosa strana, devo dire che è una cosa strana, perché secondo me questo è un film che alla fine l'avevano stanziato. È un incidente. La mia percezione è questa, e sono convinto di questo. Poi chiaramente non è detto che. Però se è stato un incidente puoi abortire, Puccio. No, però secondo me l'avevano stanziati, cioè nel senso che evidentemente dal punto di vista finanziario per motivi fiscali, qualcosa del genere. Cioè nel senso c'è un motivo per cui loro questa cosa l'hanno dovuta fare. E quei soldi l'hanno dovuti. Se non esce al cinema il tax credit te lo scordi, sì? No, non lo so come funziona negli Stati Uniti. Cioè, in Italia il tax credit per le opere cinematografiche, quella è una produzione originale Paramount Plus e lo è sempre stata. Vabbè, però ci saranno roba che ha a che vedere con i contratti degli attori. Oh, ragazzi, devo uscire per forza. Basta semplicemente che Paramount c'aveva un attivo di diversi miliardi di dollari e ha dovuto spendere i soldi per pagare meno tasse. Cioè, no, ma per fare un esempio, qualche mese fa, se vi ricordate, era venuta fuori sta cosa, che cioè questo film sui Looney Tunes, su Willy il Coyote, in cui lui va a fare causa all'Acme, la compagnia che crea i gadget. Ok, quel film non è uscito più perché conveniva di più non farlo uscire per questioni fiscali e per questioni contrattuali piuttosto che mandarlo al cinema. Un po' come Batgirl. Chi l'aveva visto nelle proiezioni di prova ha detto pure che era un bel film, faceva ridere, era carino. Non l'hanno fatto uscire perché conveniva non farlo uscire. No, guarda, e perché nei contratti degli attori c'era scritto che non erano obbligati a farlo uscire. Ma va a capire se nel contratto di Michelle c'era un obbligo del genere, quindi almeno sulla piattaforma ce l'hanno dovuto mettere. Fatto sta che reclamizzato, non l'hanno reclamizzato per niente. Cioè noi ci siamo trovati il trailer e l'avviso oltre una settimana. Sì. Noi perché seguiamo un po' l'ambiente e quindi sapevamo, in realtà questo film usciva. No, mi sarei aspettato anche che uscisse con una data sbagliata. Cioè così, vedi, non trovo. No, però la storia del mondo delle produzioni hollywoodiane in generale è piena di prodotti insulsi che vengono comunque prodotti e distribuiti e messi nel pastone. Quindi alla fine ci sta anche che tra questi prodotti, che mi è capitato anche di vedere tanti film che dopo che l'hai visto, lo dice, ma che cazzo, cioè che Però tra queste cose è capitato anche a Star Trek. Facciamo, mettiamola proprio così, cioè nel senso, questi sto film lo dovevano fare, hanno fatto il film proprio da super cassetta, che non l'hanno scritto con 2000 lire, l'hanno girato con 3000 lire e via dicendo. Di cui 2005 si è preso Michel Yeoh. Esatto. E quindi io questo lo accetto anche. Il problema è che non, cioè, perché poi ho sentito, cioè, per esempio qualcuno dice: "No, vabbè, ma alla fine che colpa c'hanno gli attori se il copione fa schifo?" No, ma che colpa c'hanno tutti? Perché, per carità, io non è che voglio, però veramente questo film non è niente. Cioè, a me la cosa che mi ha veramente infastidito, ma infastidito neanche, perché è che quando è finito il film tu hai detto: cioè, questo film non è niente. Se poi Marco usa il termine paragone The Creators The Past, bisogna considerare The Creators The Past è uno, però lì non lo puoi, cioè, tu, allora, ragazzi, non lo puoi mettere, cioè, quello è una cosa, cioè, io non accetto di utilizzarlo. Non scomodiamo i momenti più alti di podcast che ho fatto in Time Radio. Ragazzi, due momenti, un attimo per in chat Peppe dice: l'hanno dovuto far uscire perché era troppo woke e poi il parruccone non gli avrebbe fatto più fare. Woke un cazzo. No, infatti, però aspetta, non c'è tutto sto woke dentro. La prossima cosa che farà Michel Yeoh è una miniserie su Blade Runner 2099, sì. Non so cosa è meglio. Io invece volevo dire una cosa. Secondo me state cercando spiegazioni ignorando la più ovvia di tutte. Semplicemente questo film serviva per fare catalogo di prodotti original di Paramount Plus, che è una piattaforma che rispetto alla concorrenza in termini quantitativi di produzioni originali sta molto indietro. Semplicemente hanno quei brand, li devono sfruttare in qualche modo, hanno detto: ok, allora facciamo una cosa, esploriamo anche noi la strada dei prodotti originali e facciamo un prodotto originale lungometraggio che arriva, diciamo, dal mondo di Star Trek, e vediamo che succede. Vabbè, però, spendendo relativamente poco, scusa Walter, cioè, a parte che l'abbiamo detto anche prima, cioè nel senso, comunque nel mondo delle produzioni cinematografiche questi prodotti sono sempre esistiti, cioè non è che... però questo non è cinema e televisione, e vabbè, però diciamo che loro lo sono, già da questo punto di vista sono una doppia produzione, perché comunque Paramount è comunque un marchio dal punto di vista cinematografico. Ma indipendentemente da questo, il fatto che tu debba fare un prodotto original non è che cioè, questo automaticamente significa che il film deve essere un film da merda. Cioè, no, però sta scritto da nessuna parte. No, però questo lo è stato. Questo lo è stato perché purtroppo è figlio di qualcosa che è di merda quanto lui, che è Discovery. Cioè, capiamo da dove arriva. La writing room, la produzione, i presupposti sono tutti figli di quella grandissima merda che è Discovery. Questo Walter vuol dire niente, cioè, esatto, pure la serie dei Pike è figlia di Discovery, se è per questo, cioè. No, però è diverso, perché la serie di Pike è stata introdotta attraverso Discovery, ma poi ha seguito un iter completamente diverso a livello di sceneggiatura ed è stata affidata a produttori e a manici diversi ed è andata per la sua strada. E oltretutto, essendo vincolata a dover raccontare personaggi e storie in qualche modo già scritti, c'era meno libertà di far come cazzo te pare. Vabbè, perché comunque dovevi riscrivere un universo che era già, cioè, stato questo definito. Questo non toglie comunque quello che comunque la domanda che faccio prima, che il fatto che tu debba fare un prodotto del genere, anche che viene estratto da quell'opera lì, comunque nessuno ti dice che lo puoi fare anche un buon prodotto. Non ti dico un capolavoro, un bellissimo film, ma comunque è una cosa decente. Non dico che l'abbiano fatto volontariamente brutto, dico che consapevolmente o meno, un po' al risparmio, ma al di là di questo, consapevolmente o meno, è figlio di un'onda che comunque è piena dei problemi. Poi magari questi problemi noi li stiamo percependo anche in maniera maggiore di quanto non li percepiscano altrove o di quanto non li abbiano percepiti, perché se Discovery, brutto com'è, l'hanno portato avanti per 5 stagioni, evidentemente poi in qualche modo quello che doveva rendere in termini numerici, in termini di riscontro, magari l'avrà anche reso, avrà parlato ad un pubblico diverso da quello tipico di Star Trek, perché dubito che il Trekkie medio e diciamo classico abbia sopportato Discovery, però evidentemente se l'hanno fatto durare 5 stagioni, il tornaconto in qualche modo ci sarà anche stato. Walter, il Trek medio ha sopportato le prime 2 stagioni di Next Generation, che è arretto anche roba discutibile, tipo gli ultimi 2 film della serie classica, tipo Oltre l'ultima frontiera, che è grandioso, tipo, film da merda. Ricordiamoci che non si chiede la carta d'identità a Dio, che è l'unica cosa che salva quel film. Infatti quel film è stato fuori canone per tanto tempo, l'hanno redetto, ricanonicizzato, sì, da poco in realtà, ma pare dietro insistenza di Shatner, perché se non ricordo male l'aveva scritto lui, una roba del genere. Sì, probabilmente c'è di mezzo. Cioè, quindi, allora, quando parliamo di fandom, che sia Star Trek, che sia Star Wars, che sia voi Transformers, il cazzo che ci pare, il problema di base è che i fan non sono una fonte attendibile di analisi, perché ragionano per categorie di pensiero che il pubblico medio non considera più delle volte. Quindi, cioè, se vai a chiedere a un fan di Star Wars se gli piace, che ne so, fino là va 5 anni fa, 10 anni fa, se prendevi la trilogia prequel era una merda, adesso improvvisamente è diventata imprescindibile e meravigliosa per alcuni, perché cambiano i tempi, cambia il modo in cui ti approccio alle opere, perché tutto quello che esce di nuovo mediamente ti fa più cagare di quello che hai già visto, perché a volte è vero, a volte c'è gli occhiali rosa della nostalgia piantati in faccia, e quindi vabbè. Rotten Tomato gli dà 2.5/5. È tipo il doppio di quello che mi aspettavo. È un boato. IMDb è molto meno indulgente, 3.8/10. Vabbè, è giusto, è più giusto, è più compatibile. Sì, è più corretto. È vero che fa un voto su 5, è un po' più difficile, cioè fa la media. Dice che la media generale del pubblico è di 3.5/5. Senti, intanto Ruggero ci dice, vabbè, Paramount sta scadendo, io avevo visto la serie ma mi manca l'ultima stagione, perde tutto il fascino di Star Trek, ripensando ci sono comunque poche le serie allineate con i personaggi classici. Dice, sì, tutto sommato mi è piaciuto molto di più Strange New World. Beh, Strange New World è piaciuto. Beh, allora, innanzitutto leva il tutto sommato, prima di tutto. Cioè Strange New World è fortunatamente qualcosa di Trek, l'abbiamo detto di tante Trek. Volte di tutte le nuove declinazioni, la più divertente e la più azzeccata per mille motivi è Lower Decks, però anche Strange New World sta molto bene. Poi Strange New World c'ha il vantaggio che a parte il fatto del pilota automatico, cioè le cose non possono andare diversamente perché lo sappiamo, però c'ha il fatto di non avere una trama orizzontale, o perlomeno di averla talmente... No, è molto classico, cioè molto classico. Sì, cioè di puntare molto sull'autoconclusivo, cioè ti racconto una storia che finisce qui, poi magari ci avrà delle conseguenze, ma che non dureranno mai più di 2 episodi, cioè tipo il processo al primo ufficiale. Hanno usato lo schema classico di Star Trek. Hanno usato quello della serie. Sì, ma anche i mood, le atmosfere, lo spirito, anche la cosa dell'esplorazione, la scoperta di nuove civiltà, cioè ritorna... Il fatto che Pike sia sano di mente a differenza di Kirk, cioè tutta una serie di... Sì, che poi... Malgrado quello, sapere quello che sai, insomma mantenere la lucidità tra l'altro. E sfruttarla a tuo vantaggio, quella cosa, che è la cosa che mi fa morire. Posso fare il kamikaze, tanto so che non morirò domani. Ma guardi, capitano, che se ci buttiamo nella buona, sì, vai. Tranquillo. Lui ce l'ha avuto, il suo scompenso nella serie. C'è stato un momento in cui. Sì, quando stava scrivendo ai ragazzi. Nel senso che comunque il suo comando ha subito tantissimo questo tipo di problematiche, e poi dopo lui ha cercato di reintegranzi, addirittura ha cercato pure di immaginare come poter modificare il destino, no? Infatti c'è quella puntata dove arriva lui nel futuro e gli dice guarda che sta a fare la strozzata, Ciccio, stai a fare strozzate. Tra l'altro ricordiamo che Pike a un certo punto lo vediamo cucinare una carbonara, questa è una cosa male, molto male. Vabbè, se scusami, perché però cucina la carbonara, o per come la cucina nel forno a legna. Sì, vabbè, che chiude il forno a legna, vabbè, ma no, sì, un momento di veramente 4 ristoranti, sarebbe arrivato Cannavacciolo con le spranghe. E poi tra l'altro c'era un subreddit dedicato a Paco, che è Riker che fa le pizze, chiedendosi che cosa ci aveva messo sopra. Sì, ingredienti planetari, perché mica lo fai con la, non fa avranno schiuma, usato la zozzona di schiuma, ma non è sapone. esatto. Vabbè, comunque non so se vogliamo, ci sono altri punti da disaminare, perché ma adesso siamo tu ti hai fatto una scaletta con 200 punti, dici. Beh, ma molti li abbiamo accavallati, quindi molti, insomma, perché cosa dico di sì, quel Puccio in qualche modo con l'apparizione di controllo alla fine, che non è un controllo qualunque, ma sì, Gemini Curtis, ci stanno dicendo beh, noi ne faremo anche degli altri tutto sommato. E Gemini Curtis è libera. Sì, d'altra parte voglio dire, se Cronenberg è diventato un personaggio ricorrente in Discovery, non vedo perché no. Io vi giuro, quella è una cosa che ogni volta che ci penso mi viene un ictus. Tra l'altro, no, tra l'altro, secondo me lui si comporta anche molto bene. Cioè, nel senso, sì, ma fa un bel, cioè, fa anche un bel personaggio. Anzi, forse è l'unico personaggio degno di nota, insomma, a un certo punto. No, ma scusatemi, perché dal mio punto di vista è come se un giorno mi vedo la seconda stagione ipotetica di Firefly e c'è la buon'anima di David Lynch che fa un personaggio, esatto. E quella è la dissonanza cognitiva del fatto che poi la maggior parte della gente lo sa che quello è Cronenberg, tu lo guardi e dici ma che cazzo sta a fa qua. Esatto. In realtà secondo me la maggior parte della gente non lo sa chi è, cioè semplicemente perché non è che tu lo conosci, cioè nel senso è così noto che tu dici vedi Cronenberg, cioè. Cioè tu dici quello è l'autore del Pasto Nudo, cioè uno dei film più fuori di testa dell'universo conosciuto, sì, e sta lì a fare un personaggio all'interno di Star Trek, un personaggio che tutto sommato c'ha anche una certa solidità, che non fa cose strane, è quello che abbiamo detto infatti. Rispetto ai film che fa, no, guardi, abbiamo detto è anche quello che alza gli occhi al cielo quando i personaggi fanno cose strane tipo cancellare gli ologrammi sbattendo le ciglia, cioè. Sì, assolutamente. No, devo dire che è un bel personaggio costruito bene, anche col fisico, cioè nel senso con la con la presenza, la esatto, sì, nel senso la presenza. È un personaggio carismatico, lui è sezione 31, cioè se tu lo vai a vedere, no, cioè, proprio lo vai a cercare un po' quando lui ti dice ci sono cose che non si possono dire, cose che non si che lui è un po' sezione 31, insomma. Sì, che poi ti ricordi il discorso che stavamo facendo prima, cioè del fatto che usare sezione 31 come concetto, come è stato usato in questo film, comunque proprio t'ammazza il concetto. Bravo. Da Trekker si è abituato a vedere questi che arrivano, fanno cose che la Federazione non può e non deve fare e poi spariscono. No, ancora peggio, tu neanche li vedi a volte, cioè nel senso tu sai che ci sono. Allora, la sezione 31 è stata inserita in diversi contesti in un po' tutte quante le serie, dove c'era comunque il personaggio che doveva per forza fare quell'operazione con la sezione, o comunque sapevi che dietro c'era comunque questo movimento, questa situazione. E quando tu ovviamente vai a raccontare una cosa così oscura, così nascosta, così che non dovrebbe esistere, alla fine la distruggi a prescindere. A maggior ragione se fai questi quattro personaggi di merda, perché questi erano quattro personaggi di merda. Cioè tu tu prendi Enterprise, no? Quando il tenente Reed doveva fare quelle missioni speciali per il colonnello che ovviamente all'insaputa del comandante roba, cioè, quello era una sorta di protogenesi della sezione 31, capito? Quindi alla fine sì, difatti non viene mai detto che è il servizio segreto che gliele sta chiedendo, esatto, che poi fa capire, ma quello che abbiamo capito è che dell'intelligence della flotta stellare la sezione 31 è la parte estrema dell'intelligence, quasi deviata, insomma. Esatto, sì, quindi sono riusciti a renderla inquietante persino in Deep Space Nine, quando vanno a reclutare Bashir, che alla fine, cioè, succede un cazzo, però i personaggi che vanno a reclutare Bashir ti mettono un po' i brividi rispetto alla media della Federazione. Ma doveva essere così, perché poi alla fine se tu vai a vedere, cioè nel senso, tu sapevi che questa, cioè io mi aspettavo, guarda, l'astronave della sezione 31 che si vede su Discovery, no? Con tutti questi personaggi, tutti vestiti a nero, più o meno faccia schifo, però più o meno. Però in realtà io se penso a una nave della sezione 31, penso a una nave occultata, piena di romulani dentro, cioè schiavizzati oltretutto, cioè nel senso, senza nessun diritto civile e sociale, cioè quindi, cioè, nel senso, mi immagino comunque gente iperaddestrata. Non puoi metterli in questo caso, perché sennò poi dopo cinesi, cioè, parlate di noi, esatto, no, romulani, non sono cinesi, non c'è lo schiavismo. comunque vabbè, raga, ricapitolando un po', anche facendo un po' un'opinione finale su, poi ovviamente volevo ritornare un po' su questa cosa della base stellare, che se tu quando la vedevi al trailer, pure a me il feeling mi aveva dato da Deep Space, no, diciamo così, no? Però poi alla fine quando la vai a vedere e te, merda, e te domandi, cioè, no, ma chi è l'architetto che ha fatto questa cosa? Quello si chiama architettura ostile, cioè tu praticamente non riesci ad andare dal punto A al punto D senza passare per le altre 18 lettere. Insomma, Marco, te l'ho spiegato, lì c'è no, è un'epoca dove esistono i teletrasporti. No, insomma, nessuno usa il teletrasporto, non è il trentesimo secolo, che cazzo ne so, di Enterprise, che tutti hanno il dispositivo personale, nessuno usa il cazzo di teletrasporto. Magari c'è un teletrasporto lì che ti porta dell'A, ma l'hai mai visto? No, perché nessuno certo lo usa. L'ho mai visto, non si vede. Usano tutti i turboascensori che fanno i giri del cazzo. Quella è una stazione spaziale ricreativa, quindi ci si va per, anche tra virgolette, spendere soldi, visto che poi lì in teoria il denaro non dovrebbe esserci, perciò è normale, come in un centro commerciale, che te la fanno girare tutta il più possibile. Allora, questo innanzitutto è un equivoco che precisiamo, non è che non esiste il denaro, e che all'interno della flotta stellare non viene considerato come un fattore di arricchimento e di accrescimento. No, all'interno della federazione in generale non c'è più lo scambio monetario, non è soltanto. Sì, c'hanno i replicatori, quindi. Sì, però i crediti, come fa vedere anche sui film di Kirk, esistono, perché se tu interagisci con una società esterna alla flotta stellare, in qualche maniera devi interagirci, no? Con l'Atinum, non è che fai... con esatto. Quindi c'è una forma di valuta all'interno della flotta stellare, che non è un fattore primario all'interno della politica della flotta. Ma poi, detto questo, cioè noi, come ha detto Walter giustamente, quella era una stazione spaziale ricreativa. Perché? Perché noi vediamo questa enorme struttura dove dentro c'è un bar. Cioè noi sappiamo che c'è solo un bar dentro, cioè non sappiamo cosa c'è una dentro. Una sorta di net club più che un bar, perché alla fine quello era. Poi immagino che ci saranno anche delle stanze d'albergo, perché ovviamente la gente soggiorna lì, visto e considerato che non è che arrivi lì, ti guardi, non è che vai al cinema e te ne torni a casa. Ci trombano, quello siamo sicuri, perché ci sono gli individui. Ci sono i, cioè voglio dire, comunque sia quello. C'è lo scannatoio di Filippa Giorgi. È una sorta di grande casino. Sì, esatto. Di Las Vegas, nello spazio. Però esatto, visto che siamo in questo bellissimo ambiente, perché non parliamo di quelle, esatto, di quella figura? Bravo, esatto, stavo arrivando lì. Bravo, allora vai, arrivaci. Vai, no, vai, vai, vai. Perché a certo punto ci viene presentato anche nel trailer con molto orgoglio. Senti il rumore dell'orgoglio. Dell'occhietto che strizza, dell'occhietto clip, che strizza. Clip, clip, clip. Il tizio bigolore. Kai. Che tu dici? Che cazzo c'è stato? Gli hanno dato, in realtà, l'assistonto della Giorgio. Marco, come ci può essere soltanto venuto in mente il fatto che gli avrebbero dato un contesto a questa cosa? Perché io ho detto, vabbè, ma questo, cioè, la federazione entra in contatto con questa popolazione, con Kirk, dei cane. Quindi ci sarà, ci diranno perché sta lì, no? A cazzo di cane. Quello, a un certo punto c'è uno che mentre stavano a scrivere gli ha detto, oh, ma voi ricordate quel personaggio mezzo bianco, mezzo nero, quello da Juve? Ah sì, buttiamocelo dentro. Ma se so, non c'è frega un cazzo. Dentro, l'hanno messo là. E quel personaggio che dovrebbe autodistruggersi. Nel senso, perché è fatto di... No, soltanto se tocca uno bianco-nero. Okay, okay. Lui è nero-bianco. Lui è se nero-bianco. Tocca un bianco-nero si fa un palo... Con palo. Quindi è uno dell'Udinese che si incontra con uno da Juve. Esatto, un macello, okay. Seminano. Un macello. E vabbè, comunque no, messo là proprio completamente decontestualizzato. Esatto, cioè non c'è un... cioè almeno spiegalo, no, sai, sono venuto qua perché non mandavate a casa mia, che stava facendo tre botte. Tra l'altro al grande popolo, diciamo, della galassia erano pure sconosciuti questi. Sì, perché poi è Kirk che ci fa il primo contatto. Sì. Quindi non è che uno dice, oh, vedi, questo è uno bianco nero, tu chi sei? No, non gliene frega un cazzo a nessuno. Vabbè. Niente, una tristezza proprio. Raga, veramente roba brutta forte. Non c'è niente di salvabile, però non ci ha nemmeno fatto incazzare. Perché torniamo al discorso che l'abbiamo preso con una tale consapevolezza prima ancora di guardarlo, no? Con una tale con un fatalismo assurdo. Dice, vabbè, lo sai perché? Sono stati furbi sul fatto che l'hanno decontestualizzato. Cioè, non hanno inserito elementi Trek che te. A parte il bianco nero, poca altra roba, non ho inserito elementi che ti avrebbero fatto incazzare. cioè hanno detto, oh, raga, qui proprio andiamo proprio a cazzo dei cani, cioè proprio zero carbonella, niente flotta stellare, niente interfacce dei computer da flotta stellare, niente, non c'è cazzo dentro sto film, quindi possiamo fare come ci pare. E tra l'altro, mettendo una storia completamente insignificante, con dei personaggi insignificanti, ma anche il cattivo è totalmente insignificante, perché alla fine sto cattivo era un coglione, poveraccio. Era morto le figa. Era un coglione che per cattivo, perché c'è nato un puzza proprio, c'è nato talmente un puzza che ha simulato la sua morte, ricordiamo, questa è una cosa importante. Peppe dice che lui salverebbe Michelle Yeoh nell'ultimo vestito diamantato, è fighissimo, e dice che in generale i costumi erano tutti belli. Si chiama gerontofilia, però. Sì, vabbè, sì, ma insomma, ho visto, allora, dei belli. Lei, no, dai, lei è una bella. Quegli appariscenti da nightclub erano anche belli, gli altri, sì, secondo me, no. Boh, io non mi ricordo un cazzo, ragazzi. Perché erano banali. L'ho già dimenticato. Forse il vestito più bello c'era la Deltana. A me comunque scollacciata, basta. Vabbè, che era bello, basta. Marco. Ah, dice che il contenuto? Lei era buona, stava. Comunque pure un sacco da spazzatura usciva. Non lo so. Stava con i cosci di fuori, insomma. Dice che era quello. Non lo so, dai, non c'ho. Questa famo l'amore subito, altrimenti ipersessualizziamo Star Trek è un problema. No, io comunque, ragazzi, veramente gli spettatori si distraggono. Esatto. Poi non seguono la trama, è casino. Proprio per andare così, un po' andando verso un po' la conclusione e trovare un po' la cosa proprio giusto, mettiamoci un po' di veleno, perché sennò non è manco gustoso, insomma, diciamo così. Proprio il personaggio che va proprio fatto schifo. Gualdi, inizia te. Cioè, non meritano il tuo schifo. Vabbè, no, dai, fai questo. Sono tutti banali. Fai già questo sforzo di fantasia. C'è sta Iron Man de Temu che fa schifo. Cioè, è stupido. Proprio stupido come personaggio. Cioè, non è neanche irritante. Guarda, me, il vulcaniano. No, il vulcaniano me finto è irritante. E poi sta cosa, cioè, che lui forse muore e dopo prendono l'altro robot, la moglie dentro. Ah, perché? Ma sì, la cazzo storia della moglie. Cioè, ma come funziona la sezione 31? Cioè, il primo stronzo che capita, dove lo butti dentro? Lì, su quello sarà ragione Walter. Quello è proprio in pieno stile Discovery, cioè, nel senso. Porco. Proprio cose completamente. Il gemello malvagio. Ma che gemello? Ma no, era la moglie. Era la moglie. No, ma no, io devo essere incinta da quello che diceva lui. Sì, cioè, tipo 150.000 figli. 150 miliardi di figli. Esatto, sì. E tra l'altro, quello è il perfetto modo per far entrare il personaggio woke: il corpo da uomo, ma il cervello da donna, no? La femminile. Vabbè, in Star Trek, perfetto, figurati, cioè, fantastico. Infatti, ma qui ancora abbiamo anni di Dax, che so. Però niente, cioè, veramente odioso, ma perché cioè proprio. Guarda, a me, io devo dire, veramente stupido, allora, proprio, se gli altri sono tutti stupidi, però veramente quello veramente fuori, cioè quello, la nota proprio più stonata, che non c'ha niente a che fare, che non pensavi di dover vedere una volta in un film di Star Trek, è il mecha lì, è il personaggio meccanico, perché quello è veramente di un'altra storia, cioè quello che abbiamo ribattezzato Iron Man di Temu. Di Temu, esatto. Si chiama Zep, ve lo dico io. Però come io potremmo anche ribattezzarlo Robocop indiano, vista la qualità tecnica del costume. Il costume, sì. Ma magari Robocop, capito? Cioè, nel senso, comunque. Ma indiano. Ho capito, però quello è proprio. Gizmoda. Cioè, sta cosa che poi le pareti che si. Cioè, non lo so, raga. Quello è il personaggio che in Star Trek proprio non c'entra un cazzo. Ecco, quello è una cosa proprio che mi dà fastidio. Tutti gli altri, sì, stupidi, completamente stupidi, però alla fine, come abbiamo detto, è finito il film. Io già tantissime cose me ne sono già dimenticate, capito? Anzi, avremmo dovuto fare la live la sera stessa, perché sai quante. Ci abbiamo visto in contemporanea. Quanto ero più, cioè, nel senso, più proattivo nel magari ne trova anche degli spunti. È difficile trovare, cioè, un film del genere non puoi neanche mettere lì a faccia le battute, le cose, perché è talmente stupido e banale che non, cioè, no, è proprio detto, difficile. A me quello che mi ha sconvolto, comunque, vabbè, prima sentiamo Walter e Puccio sul personaggio proprio il più odioso proprio in assoluto. Allora, io intanto sarò l'unico a spezzare, ma lo contestualizzo, una lancia nei confronti del vulcaniano schizzato, proprio perché era carino il paradosso che questo altro non era che un coso un robot, un Dalek, un Dalek pilotato da una forma di vita completamente schizzata dei capoccia, che quindi finiva per dare al suo fantoccio una caratterizzazione completamente opposta a quella che ti aspetteresti, cioè era il vulcaniano non vulcaniano. Quello giocatolo meglio poteva essere anche divertente, che ovviamente sono giocato male, però all'unanimità penso pure io che Robocop de Temu sia il personaggio più inutile, più stupido, più insensato di tutta la storia, quindi quello proprio completamente fuori contesto, completamente inutile, completamente sì, serviva solo a giustificare certi atti del microorganismo che stava dentro il Dalek. Stava lì solo per giustificare altre cose. Cioè, è una cosa che vedi in tanta altra fantascienza, ma in Star Trek. Vabbè, comunque, Puccio. Il caposquadra. Niente, proprio mi ha dato sui nervi dopo 10 minuti. Ma alla fine quello. Il potenziato, dici? Sì. No, il. Il sopravvissuto della guerra genetica. Era potenziato, sì. Perché cioè, lo vedevo e vedevo questo disperato tentativo di fare il personaggio di Idris Elba in Pacific Rim. Niente, cioè proprio. No, ma non in Pacific Rim, era proprio il personaggio di Idris Elba in Star Trek, perché anche in Star Trek era un potenziato. In Star Trek Spinterella. No, ma più che altro forse è più quello di Fast and Furious, perché in Fast and Furious ti dicono che l'hanno potenziato geneticamente. È vero, sì. Cioè sembrava questa roba, questo personaggio di un altro film fatto da un altro attore messo lì. Sì, anche. A me la percezione che mi ha dato quel personaggio, cioè se io penso a quel personaggio mi domando come ha fatto questo a diventare un ufficiale comandante della sezione 31. Perché sembra. Perché hai visto l'altri? No, ma non. Cioè, basta che passi lì. A me mi sta sul cazzo quello. Vieni. Ma no, ma non per la qualità, no. Dal punto di vista come ufficiale, è proprio che è proprio un buonaccione. Cioè, è proprio. Non c'era mai. Cioè, per essere. Non mi sembra una persona. Sporchi non facevano affari sporchi. Non mi sembrava un personaggio. Un gruppo dei peones messo insieme per loro malgrado per compiere una missione. Gli heist stereotipali dei film americani, ma anche delle serie TV americane, però de cattivo, cioè de cattivo in senso di sporco, di malizioso, di quello che ti aspetteresti da qualunque servizio segreto, non c'è niente. No, da qualsiasi servizio segreto. In più questa è la sezione 31, lui non c'ha, cioè lui non è un personaggio cattivo, capito? Ma cattivo, ma non anche immorale, no? Cioè nel senso, comunque in teoria ti aspettavi quello, no? Per esempio lei, Michelle, quando la vedevi nella sezione 31, dice, è lì, poi ci poteva stare come contesto, ha, no? Ha quella capacità di essere ambigua, di giocare, esatto, sul filo de... però invece questo era, sì, ma lei fa solo le faccine e basta, sì, però, cioè, però lui era un buon, cioè non un buonaccione, lui è una persona, è morale, cioè lui è buono con tutti, è un lui sopravvissuto, cioè il fatto, cioè, che capito, cioè non è che dice te piacarci a carci in culo, oppure quello far matto va là gli dà indusgan a sonno. No, lui è buono, lui usa il dialogo, ma che cazzo di, ma che personaggio sei, scusa, cioè a me lui alla fine è talmente indifferente che non... Lui è il personaggio secondo me meno degno di nota, cioè, esatto, bravo. Perché perlomeno, eppure, cioè, è il protagonista in teoria, Temubot è comunque, te rimane in testa. Vulca scemo ti rimane in testa, la Deltana ti rimane molto in testa, il camaleonte bene o male ti rimane in testa perché fa ragnatela. Cioè, ti rimane quello che cazzo fa a parte vestirsi di nero, cioè niente fa niente. Invece menzione d'onore per il truc di Dadano che c'ha il televisorino nel cranio, non si sa per cosa. Ah sì. C'ha i valori, la bilirubina, le transaminasi. Immagino l'analisi del sangue, il tempo reale, la pressione. Cioè, hai presente quel monitorino piccolo che ho messo io nel computer che dice la temperatura della CPU? Sì, esatto, è quello. è collegato alla Nut Probe. No, ma io cioè, penso che lo dice gli altri, proprio lo stesso che ho comprato io per il computer, tra l'altro. Sì, qualcosina prop. Del genere. Il problema è che lui non vede la temperatura, per cui gli si squalla il cervello, sì. Non se ne rende conto. Cioè. Comunque, vabbè. La domanda che ci dobbiamo fare è... Peppe vuole sapere, ma il Klingon, è stato cancellato, dannazio memorie, è stato cancellato dalla sceneggiatura. Beh, no, quella ma, è la cosa ma che Klingon, cazzo, lui, era, per Klingon, sua. Lui dice quello che... Ah, lui dice i cazzo di Klingon. Klingon, lo sapete che di questa nuova era di Star Trek sono... diciamo un noto scottante perché dopo il casino che hanno fatto nella prima stagione di Discovery li devono far sparire da sì, vabbè anche... i casini con i Klingon li stanno facendo da sì sì no, no poi, ma poi dopo l'hanno anche ripristinati perché comunque alla fine se vai a vedere le serie dopo oppure quando pure su Strange New Worlds alla fine so Klingon, cioè nel senso sono tornato di essere Klingon, però insomma diciamo che è stato un momento di imbarazzo, ha creato un momento di imbarazzo. Se parliamo invece del Klingon, il tizio che alla fine si innamora di Michael, insomma, nella stagione di Star Trek Enterprise, e poi si scopre che lui in realtà era il Klingon modificato e che poi alla fine viene reintegrato e messo nella sezione 31, lui starà a fare casini in giro per la galassia. Sì, sarà in qualche altro, esatto, qualche altro team a fare bordello. Magari ci auguriamo in un modo un po' più adatto e spietato, perché lui era adatto a fare quella cosa anche lui. Vorrei vedere. Però comunque mettiamola così, se fai un film su Section 31 vorresti degli elementi specifici nella trama, uno di questi è lo spionaggio e qui non ce n'è. Un altro per forza di cose collaterale allo spionaggio, i Romulani, e qui non ce ne stanno. L'uso smodato della violenza. Un uso quantomeno appropriato di metodi che normalmente non vedresti nella federazione, quindi un uso dell'etica differente da quello rigido tipico della federazione, e non hanno avuto il coraggio di farlo, anzi hanno messo quella che te deve dire no, io sto qua per controllare che non ammazzi nessuno, e allora vaffanculo. Sì, ma poi tra l'altro io penso che la sezione 31 t'ammazza venendo dalle spalle senza che te ne accorgi con la puntata ombrello e se ne va e tu non ti sei accorto di niente, muori. Invece questo oddio, tutta la gente intorno si chiede, allora che tutta diciamo, la gente dai. Tutta la gente intorno si chiede perché va in giro con un ombrello, cioè, non si usano più da 200 pure. Anni, però insomma perché è simbolico, è simbolico, te lo fa capire, cioè io quando tu a Star Trek vedi uno con ombrello ti devi preoccupare, è quello. Ma perché piove? È il senso. No. Invece no. Qui la Section 31 può chiedere il tè al polonio al replicatore, le persone normali no. È vero, secondo me deve fare un hack, però secondo me lo può fare, insomma, perché comunque il replicatore di per sé può fare tutto, però poi ovviamente c'ha i suoi blocchi di sicurezza, no? Diciamo. Immagino di sì. E tra l'altro invece questo è Street Fighter, non è la sezione 31 che fa missioni di spionaggio, insomma. Pa-pa-ra-pa-pa. È gente che si mena male. Vabbè, possiamo dire alle date c'è Garak. Puro e semplice, ma bello, anche bello. Quelli che vivono a casa dei Picard, che teoricamente devono essere due mezze spie che poi non sono mai state approfondite. Che peccato, guarda, che peccato. Ma lui, il marito, particolarmente, era veramente un personaggio affascinante. L'hanno fatto morire da solo così. La seconda stagione è morto. E lei alla fine si mette con Picard, è una tristezza clamorosa, veramente. Si mette con Picard. Ti fanno capire che volendo ci sarebbe del tenero, ma Picard dice: qua a me mi sarza più. Però no, più che altro la terza stagione si sono scordati. Tutto hanno fatto finta che la seconda non è mai successo. Sì. Diciamo che sì, no, allora io non sono del tutto d'accordo con te, però è vero che succede anche un po' questo, no? Nel senso che perché poi alla fine la terza stagione, ma in realtà ogni stagione se va un po' per cazzi sua, tutto sì. Sommato. Ma che poi manco male, cioè, perché poi alla fine A me comunque, io devo dire, a me Picard la serie mi è piaciuta, cioè, mi sono piaciute tutte e tre le stagioni, insomma, poi le ho trovate. Chiaramente sono tutti omaggi, sono tutti un po' fanservice da un certo punto di vista. Però sono gli AD che non sono mai stati dati, esatto, da una vecchia stagione. La serie serve per quello, ma per me pure il saluto finale del Q, io ho trovato anche commovente, tutto sommato, no? Poi dopo Sì, sì, vabbè, ma magari ci torniamo un'altra volta, dai, anche perché sennò stiamo divagando un poco. Beh, almeno stasera parliamo di Star Trek. Almeno noi, perché loro non sono capaci. Almeno 5 minuti abbiamo parlato di Star Trek. E tutto questo invece, quando dovrebbe uscire la nuova stagione di Strange New World? Quest'anno o l'anno prossimo? Penso dopo l'estate. 2025. Penso dopo l'estate. A settembre mi pare che l'avessero annunciata, o sta di cazzate. Non mi ricordo date. Auguriamoci. Dice Luca S, più che altro una più degna conclusione di quella merda di Nemesis. Vabbè, qui stiamo proprio a tutti gli sprofondi che potevamo toccare. No, diciamo che comunque è meglio di sto film. No, diciamo, almeno ti incazzi. A parte che Nemesis non mi ha fatto così schifo come ha fatto a tanti, ma questo è film perché magari, sì, diciamo, non era bello, non era brutto. Però secondo me le tre stagioni di Picard mettono un po' una pezza, cioè, secondo me nascono anche un po' per quello. A volte contraddicendosi anche, però tra una stagione e l'altra. Vabbè, ma Star Trek, la, come dire, la continuità narrativa non è che sia mai stata, sì, diciamo che purtroppo il suo forte, purtroppo, diciamo. Sì, poi sai, quando c'hai 60 anni di roba alle spalle, se tu vai a vedere alla fine nella flotta stellare di Kirk c'era la pena di morte, cioè, nel senso, se tu pensi a sta cosa, no? Cioè, nel senso, solo per un reato, penso l'altissimo tradimento, cioè era previsto. Credo che questo tipo di reato in qualunque governo, anche democratico, a livello militare ci sia tuttora, cioè soprattutto quando sei in uno stato di guerra. Credo che nella legge marziale la pena di morte per alto tradimento sia prevista persino da noi. Se ci fosse stata la pena di morte in Star Trek, sai Kirk quante volte sarebbe morto. Sì. No, ma in realtà no, in Italia, questo lo dico quasi con assoluta certezza, né nell'ordinamento civile né in quello militare esiste. Non abbiamo neanche in quello militare. No, neanche in quello militare. È prevista in situazioni di guerra, cioè quando. Sì. Però non, cioè, se ti macchi di alto tradimento in tempo di pace, credo è chiaro. Io sto dicendo, anche perché commettere alto tradimento in tempo di pace è un po' complicato. Cioè, cazzo. Ho avuto un caso recente, l'anno scorso qualcuno l'ha fatto. Esatto. Sto cazzo, basta che vedi. Si faceva pagare le rate del mutuo in rubli, mi pare. No, vabbè. Allora, d'alto tradimento, siete sicuri? Sì, all'accusa era quella, poi non so per cosa l'abbiano condannato. Però vendere segreti di Stato a una potenza straniera è considerato alto tradimento. L'esame di coso militare l'ho fatto, era un complementare, ma l'ho fatto. In Italia l'unico ordinamento che prevede ancora la pena di morte pare è quello del Vaticano, però poi non è Italia, è solo per il Papa. Dice Peppe che ce lo dice con certezza lui: nell'ordinamento militare non esiste pena di morte, alto tradimento in tempo di pace esiste come? No, alto tradimento sì, lo so che esiste. Non mi ricordavo se nella questione di come si chiamava il tizio che vendeva informazioni ai russi, e l'accusa fosse quella. Era quello. Comunque negli ordinamenti da noi è stato abolito dappertutto. Grazie a Dio, insomma, da una parte. Vabbè, ragazzi, io direi che volete parlare di altri temi? No, io penso che abbiamo sofferto abbastanza non soffrendo. È stato una sorta di, come dire, di eutanasia. Eutanasia, vabbè. E metto la base la base che allegramente ci porta al bagno. Perché a un certo punto, è il brano, cioè la musica che metto quando andiamo verso i saluti finali, perché è un po' pop, un po' rock, un po' country. Tra l'altro, mi aspetto la scenetta sexy de Colpo Grosso. Questa musica è entrati, che ne so, Nadia Cassini con le tette di fuori. Magari. No, l'unica cosa è che io vorrei andarmene, ragazzi, questa sera e salutarvi tutti quanti, così come se ne va alla stazione stellare. Insieme a altre decine di navi intorno a lei, che non c'erano fino a 2 minuti che non c'erano prima, però fa scena quella cosa, che devono partire tutti insieme perché fa molto Star Wars. E poi che cazzo è sta gente, cioè, ma sono avventori, esatto. Gente, se ne va a portarci noi, quindi io dietro non si vorrei sa. Che la cosa qui, lo studio di Runtime esplodesse in curvatura, così come la stazione spaziale, insomma, è risaputo che tra l'altro la stazione spaziale si chiama come si chiama? Non mi ricordo. Si chiama Si chiama... No, lo dicono a un certo punto. Lo dico, si chiama Stazione Spaziale. Si chiama Stazione Spaziale. Io ringrazio e saluto. Dopo un po' che insomma non lo risentiamo, ma poi ritorniamo, cerchiamo di essere, di tornare più spesso con i mercoledì sera di Pop Corner, magari parlando di serie televisive, parlando anche un po' di politica quando ci capiterà. Ringrazio, se sta più la politica, se sta solo la commedia, è vero, hai ragione. Ringrazio e saluto, insomma, dopo un po' che non lo sentivamo, Carmine Puccio Console. Ciao a tutti, grazie. Grazie, anche tu parti a curvatura. Clonsole, sì, sì, sì. Con la sedia. Clonsole. Ah, Clonsole, hai ragione. Solo che non ho capito, cioè, venendo dall'universo specchio, io che normalmente c'ho il pizzetto, me lo devo tagliare o me lo devo far crescere più lungo? No, quello, se no. Chiedo ai telespettatori. No, se no ti confondi con Console, capito? Sei a posto. Hai ragione. Quindi qualcosa ti distingue, deve esserci. Salutiamo e ringraziamo anche lui con la sua palazzina lì, sta per partire a curvatura. Walter Sbano. Lunga vita e prosperità. Che dolore, che dolore. E ringrazio e saluto anche Marco Sblog Gualdi. Starg Gualdi. Anche io ho un microbo dentro di me che mi guida. Io c'ho il microbo. Quello della dissenteria. C'ho diversi microbi anche io che ti guidano, però verso una sola unica direzione, il cesso. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao.